Solo pensoso ai più deserti campi, vo mesurando a passi tardi e lenti, e gli occhi porto per fuggire intenti, ove vestigio mal l'arena stampi. Altro schermo non trovo che mi scampi, dal manifesto accorger delle genti, perché negli atti d'allegrezza spenti di fuor si legge ego mio dentro avampi. Sì ch'io mi credo mai che monti e piagge ed fiume e selve sappian di che tempre sia la mia vita che celata altrui, ma pur si aspre vie ne si selvagge cercar non so che amor non venga sempre ragionando con me che io con lui. Previene si selvaggia cercar non so che amor non venga sempre ragionando con me che io con lui, ragionando con me che io con lui.